El señor Tavares is proud to keep you warm. Bienvenidos a todos los vatos. Bring on your niggas, you holy what you gonna hear. Baby, can show me that you can. Baby, can show me that you can. Baby, show me that you can. Baby, can show me that you can. Bring on your niggas, you won't believe what you gonna hear. Martedì 4 maggio. Benvenuti a una nuova puntata di Radio BAM, che è in onda ogni martedì dalle 9 alle 10 qui sul 99.6 di Radio Onda d'Urto, la trasmissione meno curata della storia. Meno. Ma comunque un pochettino curata da BAM Magazine. Cos'è BAM Magazine? È la fanzine del meglio e del peggio del rock and roll underground che trovate su www.bam-magazine.it. Qui con me stasera i soliti scemi che ultimamente non si facevano vedere, ovvero Cristian Legramanti. Ma sono aperto? Sei aperto. Ah, ok, no, ero preso da... non ti dico dove sei aperto. Dall'album dei Greedy Mistress. John Terrible. Ciao ragazzi. E anche il nostro inviato, che però stasera non segue nessun posticipo, Geppo, che però sta andando, che non parla nel microfono. Preso male, Geppo. Stasera serata uggiosa, ci siamo un po' rotti le palle del... Sì, infatti pensavamo di non bere stasera, di andare e stare fermi, e stare fermi come tutti gli altri fanno anche in concerti. Siamo reduci comunque, pazzi, anche se sono passate due settimane, dalla Ghost Lake 5 Barbecue, di cui parleremo breve. Porto ancora gli sbarioni. Stasera invece al Leo Bar via Togni a Brescia ci sarà un gran concerto rock and roll, R&B, doo-wop, R&B addirittura. Death Punk, visto Death Punk, un membro della band da Norvegia, dalla Norvegia, in cui, come faceva giustamente notare Cischi, abbiamo anche uno special guest alla batteria, ovvero il batterista di Turbo Negro. Quindi voi che state annoiando a casa in questo momento ascoltando Radio Onda d'Urto, ascoltando soprattutto noi, dite la mia serata dopo Radio BAM sarà finita. No, voi membro delle, membri delle Turbo Jugend, esatto, vi muovete nazionali e muovetevi verso il Leo Bar di stasera, perché ci saranno i Twisterus, che adesso con cui andiamo a iniziare questa puntata di Radio BAM. Twist it. Tell me, tell me, you're my loving man. E questi erano i Caddy con Break Down and Out. Caddy, gruppo norvegese di cui non conoscevo praticamente nulla, ma in cui milita il batterista che stasera suonerà con i Twistarus e che milita anche nei Turbonegro, che sono un po' più famosi. Oh sì! Prima di loro i Mad con War or Hands of Time, lo splendido gruppo netherbeat olandese che sarà questo fine settimana in tour in Italia. Da giovedì in poi, giovedì al Baciccia di Piacenza, venerdì all'Oste di Domodossola, sabato al Jack the Ripper di Ronca in provincia di Verona e per concludere domenica al Davis Den, orario aperitivo, a Sasso Maggiore Terme, dove ci sarò anch'io, me li godrò, splendido gruppo Garage 60s. Nell'ultimo album, tra l'altro... Netherbeat o Garage 60? O Neverbeat? tutto insieme, appassionatamente. Okay. A proposito, dammi la definizione di Netherbeat, caro Cischi. Netherbeat. Guarda, io sono un gran fan del Netherbeat. Netherbeat mi trovi un po' in fallo. Netherbeat è quel tipo di beat che, in cui si era specializzato un po' i gruppi olandesi, che si erano un po' fatti questo filone. Avrei detto quelli danesi. Bravissimo. Vabbè, comunque i Mad, myspace.com/themad con due D, hanno appena pubblicato il loro secondo album su Excelsior, un'etichetta abbastanza buona, insomma, qualitativamente alta. Il primo album l'avevano fatto solo di cover, invece nell'ultimo ci sono anche dei pezzi propri. Io li ho visti già da vivo l'anno scorso in tour in Italia, sono veramente, veramente, veramente bravi. Purtroppo non suoneranno martedì prossimo al Lio Bar di Brescia, come è riportato. Ed è tutta colpa tua, Franz. No, per una volta no. Comunque, non è colpa tua. Vogliamo dirla di chi è la colpa. Ma diciamo di chi è la colpa, ovvero nostra, del fatto che stasera i Twistarus suoneranno qui al Lio Bar di Brescia e dalle 23 in poi, grande festa, noi saremo lì a festeggiare. Accorrete. Ragazze. Ma pare anche che sia compleanno di un personaggio di un certo livello. Quindi sbaglio. Ragazze e minorenni, venite al Lio Bar a vedere i Twistarus, di cui abbiamo sentito la cover di Chills and Fever. Wow. Visto che abbiamo qua stasera John Terrible con noi, John, il 25 aprile cosa c'è stato? Il 25 aprile cos'è stato? Il Ghost Lake Barbecue. Ok. Ed è stato un bel macello. È stato un bel macello, c'era l'Hunger Slim, c'era tante birre che non siamo riusciti a finire. Non sono riusciti a finire le birre. Nonostante molte siano state esplose sulle nostre facce. Molto bene, ringraziamo tutti chi c'è stato. Ringraziamo Cischi che ha creato un video che ci ha un po' compromesso. Sì, un po' la mia parte più reazionaria è emersa. Esattamente. Che ci volete fare? Il nostro amico. Ce ne sarà un altro americano. A breve, Ce ne sarà un altro e sarà veramente un grosso casino. 20 giugno! Esatto, il 20 giugno ci saranno i Surfing Lungs, Adam McBride Smith. Faremo forse vedere se i nostri utenti mezzi tecnici ce lo permetteranno. Sì. La partita dell'Italia Nuova Zelanda, sarà una partita dai grandi contenuti. Potete già telefonarci o scriverci all'indirizzo che non so per prenotare il barbecue, perché si partirà come il precedente Ghost Lake dalle 12 in poi e si finirà alle 11 di sera. Perché è non sai l'indirizzo mail? Franz Casanova@hotmail.com. Il numero di telefono mi sembra che sia 030-45670 per chiamarci qua in diretta, ma tanto non sappiamo come rispondere, quindi... Non sappiamo come rispondere, una volta sì, lo sappiamo, risposta. Ma comunque al telefono di Lalciano, per cui non risponderebbe mai, anche perché Ciano mostreremo le chiacchiere. Allora dai, passiamo a qualcosa che piace anche a Gigi, altrimenti che è qua con noi a vedere. I Greedy Mistress, dici? Non i Greedy Mistress. No? Ma un gruppo inglese, i So-Co sono inglesi, Gigi, fammi cenno sì o no mentre bevi, chi lo sa. Vabbè, li passiamo lo stesso, loro sono i So-Co con Casablanca. Oh! Irlandesi, ma tira dice Gigi. Ma tira su un po' il ritorno. Casa Blanca.

21.34 qui sul 99.6 di Radio Onda d'Urto. Questi erano i Twistarus con Baby Baby Baby. Suoneranno stasera a Leo Bar in via Togni a Brescia. Abbiamo qua un graditissimo ospite qua a caso, ovvero Ciano di Cianotic e Punk Rock City. Buonasera a tutti, non mancate al concerto di questa sera, eh? Ma cosa, che, cosa dici? Non mancate, esatto, non mancate al concerto di questa sera. Ma poi io ascolto la tua trasmissione lunedì sera. E chi è qua i punk di Wikipedia qua? Ci dai dei punk di Wikipedia adesso davanti al tribunale qua degli sbagli. Ah, un casino. Il pop punk ha preso il sopravvento. Parla vicino al microfono. Il pop punk ormai ha preso il sopravvento. Sì. Su chi? Sul resto del eliminiamo del Gufo. Bisognerebbe farlo, sì. Cacci il culo a Gufo, Stavi parlando prima di cose interessanti. Il garage non vende più. Il garage non vende più. Come mai? Devi dirmelo tu che sei il padrino del garage. Perché scarichiamo, scarichiamo. Esatto, perché scaricate. Beh, ti riscaricare, Marcella. Sta fallendo in Italia. Gigi non è d'accordo. Bella Franz. Bella Gigi. Gigi è Bastian contrario, Franz. Allora quindi la Enderet vende. Comunque. Stasera ci sarai anche te, vedi Twistarus sicuramente, visto che tu sempre. Però, nonostante sei ormai vecchio. Nonostante sia una serata uggiosa, però vale la pena di andare a vederli, perché ci suonano personaggi come Vibeke Saugestad, che suona nei... negli Yang Yams. Bravo! E nei Vibeke Saugestad, che cioè lei stesso. Poi Morten Eriksen, che ha suonato negli Yang Yams, ma anche in gruppi come i Vikings e mille altri gruppi storici norvegesi. Il batterista è il batterista dei Turbo Negro. Vale la pena di pubblicizzarlo un po' di più questa data. Esatto, peccato che qualcuno non ci aiuti, però fa niente. Che è quel bastardo, per me è Gigi. Prima dei Twistarus, prima ancora gli Yams, appunto, di Morten Eriksen, che abbiamo visto e abbiamo avuto qui ospiti in radio. Ma tra l'altro novembre. Arrivano, Franz? Non lo so se arrivano, dovrebbe essere qua ospiti, ma forse stanno mangiando. Comunque gli Yams con Get Ugly. E prima ancora i So Cow, che il nostro amico Gigi ci dice che sono del Nord Irlanda, con i miei, come i miei amici. Ah, amati Ash. Ah, che super guy. Una raccolta di singoli che non è proprio bellissima, però vabbè. Siamo in ritardo, non vengono, quindi non avremo mi arriva un aggiornamento in questo momento. Continueremo a sparare le nostre stronzate. Sì! E quindi parleremo del fatto che Jack Oblivion con i suoi Tennessee Teen Jerkers sarà di ritorno qua a inizio giugno per tre date italiane. E sarà fuoco e fiamme, Franz Barcella. No? Ma non lo so, io non ci sarò, quindi me lo dovrai dire tu. Te lo dirò, ti farò sapere. A parte dove sei tu, ciucciacazzi? Sei in tour? Vabbè, Jack Oblivion and the Tennessee Teen Jerkers qui su 99.6 di Radio Onda d'Urto. Try

E questo erano gli Yakuza Boys con Island Avenue. Dovevamo stasera avere come ospiti Twista Ruse, che suoneranno stasera agli Obà di Brescia. Ma e invece gli Yakuza Boys sono in ritardo perché stanno mettendo fumando la droga per fare un concerto ancora più spaccaculi. Però ci siamo beccati gli Yakuza Boys con Island Avenue. Prima di loro i Pierce Darrows con This Is The Day, tratto dal loro ultimo album intitolato Descending Shadows, pubblicato stranamente dalla Vice Records. Yakuza Boys o Yakuza Boys? Peccato. Mafiosi. Mentre i Pierce Darrows, devi sapere, caro mio Cischi, che sono un gruppo che si è sempre prodotto, soprattutto anche con la loro precedente reincarnazione, ovvero i Dead Moon. Sono prodotto il loro bellissimo primo album, invece l'ultimo è pubblicato dalla Ma Vice. Tu ti stai leggendo delle note o lo sai? Lo so. Bravo, vedi, non ci sono note. Wow. È vero, confermo per i telespettatori addirittura a casa che lo anch'io. Sapeva. Prima dei Pierce Darrows con This Is The Day, ultimo album, comunque l'ultimo, Descending in Shadows su Vice, non perché su Vice, ma insomma abbastanza deludente, molto meglio, quindi procuratevelo. No. Prima di loro Caroline and the Tweets con It's Cool to Rock. Bello, bello. Cover di una cover, cioè cover dei Vikings che facevano la cover di qualcun altro che... Allora qui dovevi farti la nota. Cancella. Comunque Caroline and the Tweets, in cui suona Morten Eriksen, che suonerà stasera in questa USA. Stasera Jacob Levan and the Tennessee Tear Jerkers con Against the Wall. Tennessee Jerkers. Tear Jerker. Tosti, li apprezziamo. Con il loro ultimo album Disco Outlaw, pubblicato dalla Goner Records di Memphis. Jack Oblivion, ovviamente, degli Oblivions, dei Colpus. Guarda, oggi pomeriggio ascoltavo That's How I Got Memphis, okay, di Solomon Burke. E saremmo tutti felici di ascoltarla adesso. Se tu l'avessi, potremmo passarla. Invece di mettere. Sei qua il mio conduttore da quanto? 3-4 mesi non hai ancora portato un disco da sentire. Hai ragione. Fa vedere il disco. Io mi spazzo il CD dei Greedy Mistress. Io distribuisco San Miguel a basso costo invece. Sono le 21:53. Ma quelle cuffie strafighe che hai addosso, te le sei portate da casa o sono dotazione sono della radio? Dotazione della radio. Ma sono nuove però. Non credo. Cazzarola. Non credo, hanno anche sembrano bellissimo belle. Sticker con scritto Studio Viola, visto che siamo Studio Viola. Questo è Studio Viola. Wow. 99 è curioso che non ci sia Radio Onda Dotto. Questa è Radio Bam. Cerchiamo di mantenere un contegno, ma a fine serata non ci riusciamo. Di solito no. Bisogno. Potete trovare tutte le trasmissioni scaricabili come podcast su Radio Bam. Basta che lo cercate su iTunes o www.bammagazine.it. Fatelo. Anche appena quel ultime... cazzone si ripiglia esatto, a mandare gli upload, perché è già un mese che siamo senza. È già un insultatelo, mese che chiamate e insultatelo. Esatto, perché le ultime 5 puntate non sono scaricabili per ora, ma appena troverò 5 minuti di tempo. Povero Franz che lavora tutto il giorno e non ha tempo di mettere gli upload. Un uomo veramente tutti, impegnato. Non siamo tutti dei cameraman di Sky. Salutiamo il nostro amico Ciano. Ciao Ciano, Ciano! Spacca tutto. E noi adesso ci sentiamo un pezzo dedicato a Gigi Rubagotti, che è qua con noi della Ricepo. Grande Gigi, te il tuo pastis di merda te lo facciamo bere. Ovvero i Movie Star Junkies con Flamingo. No! 7 pollici pubblicato dalla Perpetrator. Perpetrator, Gigi, bravissima, wow, italiana. Quindi i Movie Star Junkies qui sul 99.6 di Radio Dadotto. Poi sentiamo ancora i Twistarus e poi ci salutiamo. Oh, sì! Che tempo riuscì tanta... Cacca. Sono arrivate le 21.59 qui sul 99.6 di Radio Onda d'Urto. Wow! Questi erano i Ramones con Needles and Pins. Finalmente! Finalmente, visto che non li passiamo mai abbastanza. Mai! Siamo arrivati a questa conclusione in questa ennesima puntata di Radio Bam, ormai non mi ricordo neanche più che numero siamo. Ma mi ricordo benissimo che dopo di noi va in onda Desert Caravan, un programma fichissimo. Woo! Che fa cagare. Qui fa poco parte la sigla. Anzi, se non sento male, sta partendo proprio ora. O è proprio forte l'Atalanta. Ah, è più forte delle ingiustizie. L'anno prossimo doppio derby. E con questo vi salutiamo. Dopo di noi Desert Caravan. Sì, che è un gran programma. Tom. Va bene, ci vediamo settimana prossima qua, sempre qua sulle frequenze di Radio Nadurto. Dopo di noi Desert Caravan. Poi ancora Blues Metal Jacket. Dopo ancora Radio Taxi. Stasera al 21 Twista Rouge al Lio Bar. Sì! Sono stupato di dirvelo, venite, muovete le chiappe, altrimenti resterete sempre tristi nella vita. Alzate il vostro culo, alzate il vostro culo! Sì.